La storia di Anne Bronte, la sorella sconosciuta di Emily e Charlotte, è una storia breve e silenziosa. Le sorelle Bronte erano cinque. Due morirono bambine a causa della durezza delle condizioni di vita nella scuola per le figlie degli ecclesiastici dove furono mandate a causa della morte della mamma. Le orribili condizioni di vita di quegli istituti ce le racconta Charlotte in Jane Eyre, ricordando ciò che visse lei stessa insieme a Emily e alle altre due sorelle, essendo figlie di un vicario. Anne era la più silenziosa delle tre, ma anche la più saggia. Era troppo piccola per andare in quella tremenda scuola, dalla quale Charlotte e Emily furono tolte dopo la morte delle altre due. Fu in seguito Charlotte, la maggiore rimasta, a fare da istitutrice alle altre due sorelle. I due romanzi che Anne ci ha lasciato, Agnes Grey e La signora di Wildfell Hall, sono cronache realistiche e lucide delle condizioni di vita femminili dell'epoca. Mancano degli abbellimenti romantici presenti in Jane Eyre e Cime tempestose delle sue sorelle maggiori più famose. Nei suoi pochi anni di vita, Anne, che morì 29enne a causa delle fatiche e continue privazioni della vita a cui il padre obbligava tutte loro, osservò e comprese molte verità fondamentali sul destino delle fanciulle di epoca vittoriana, le uniche che potevano sperimentare un minimo di libertà, se così si poteva chiamare la tirannia che subivano nelle famiglie dove andavano a lavorare, erano le figlie degli ecclesiastici che, avendo avuto una certa preparazione culturale, potevano impiegarsi come governanti istitutrici. Sì, perché a quei tempi le donne dell'aristocrazia e alta borghesia non potevano nemmeno pensare di lavorare e dovevano quindi dipendere per tutta la vita dai padri e dai mariti. Viceversa, le donne del popolo eseguivano i lavori più umili e non avevano certo tempo da dedicare all'istruzione. Invece, le figlie degli ecclesiastici, come le sorelle Bronte, avevano istruzione e necessità di contribuire economicamente alle necessità della famiglia. Ma il destino che le aspettava una volta divenute istitutrici era spesso triste e logorante. Come racconta con stile giornalistico Anne nel suo Agnes Grey, storia di una istitutrice che si può dire sia autobiografica, le ragazzine e i ragazzini che venivano loro affidati erano pigri, viziati, svogliati e prepotenti, spesso crudeli, disobbedienti, rissosi e maleducati. Specialmente i maschietti venivano addirittura incoraggiati dagli stessi genitori a maltrattare animali, sorelle, servitù, madri e, ça va sans dire, governanti, per sviluppare la loro virilità. Dalla biografia di Charlotte, scritta dalla sua contemporanea Elizabeth Gaskell, la straordinaria autrice del romanzo Ruth, apprendiamo che il vicario Bronte stanziò per l'unico figlio maschio i pochi soldi disponibili per lo studio, come usanza all'epoca. Ma il maschio, di cui il padre era così orgoglioso, si rivelò inetto, bugiardo e incapace. Morì alcolizzato e dedito all'oppio dopo essersi indebitato e aver costretto le sorelle a vivere mesi di incubo a causa delle sue continue allucinazioni. Fu per pagare i debiti del fratello che le tre sorelle diventarono istitutrici. Quindi, ciò che descrive Anne in Agnes Grey è la sua esperienza reale, senza abbellimenti o invenzioni di sorta, e la nuda, agghiacciante cronaca della vita di una istitutrice vittoriana. Delle tre sorelle, Anne è quella che nei suoi scritti più si attiene alla realtà dei fatti, come si evince anche dall'altro suo romanzo, La signora di Wildfell Hall. Anche Charlotte, dopo il grande successo di Jane Eyre, si cimentò nel redigere la cronaca della vita di una istitutrice, scrivendo la sua propria esperienza nel romanzo Villette. Emily, invece, morì dopo aver scritto Cime tempestose e una raccolta di poesie che la grande poeta americana Emily Dickinson volle fossero lette al suo funerale. Insomma, Anne, nella sua semplicità, modestia e riservatezza, ci ha lasciato due documenti giornalistici sulla vita delle donne del suo tempo. Per questo a noi piace immensamente, anche se il suo primo romanzo, Agnes Grey, appunto, passò quasi inosservato, essendo uscito in concomitanza con quello di Emily, Cime tempestose, che al contrario ebbe immediatamente un successo strepitoso, dato il carattere gotico e romantico delle ambientazioni dei personaggi, allora molto in voga. Cime tempestose È una storia avvincente con un brutto personaggio femminile, la volubile, viziata e superficiale Katie. Agnes Grey è un documento prezioso della vita di un'istitutrice, ma che poi la leale, assennata, coraggiosa e sincera Agnes, alias Anne. Un romanzo che non può mancare di interessare le ricercatrici della verità. Per approfondire la biografia di Anne Bronte si ascolti anche la presentazione all'altro suo romanzo, La signora di Wildfell Hall, di cui lascio il link in descrizione qua sotto. I romanzi Jane Eyre, Ruth e La signora di Wildfell Hall sono tutti ascoltabili sul nostro canale. Lascio in descrizione i link alle playlist per chi volesse ascoltarli. Il disegno usato come immagine per questo video è uno schizzo di Anne eseguito dalla stessa Charlotte. Agnes Grey, che la Scuola delle Donne vi propone, è edito da Rusconi e tradotto da Lia Spaventa Filippi. Da Devana, buon ascolto.